intanto la prima cosa che vorrei dire è che il nostro stesso volantino che indice l'assemblea che faremo venerdì prossimo è già superato dalla intervista che l'assessore all'urbanistica del Comune di Bologna ha rilasciato pochi giorni addietro a un quotidiano locale, perché non siamo più alle voci, siamo alla prefigurazione, parole dell'assessore, di uno scambio che io definisco scellerato, che contempla la disponibilità di Invimit di cedere al comune l'area est dove sorge questo bosco urbano che sarebbe preservato fortunatamente perché è un punto strategico per la città, per l'ossigeno che produce, insomma, per la biodiversità e così via. Mentre per l'area ovest sostanzialmente quello che si prefigura è una colata di cemento. Certo. Adesso noi abbiamo attivato la procedura per l'accesso agli atti per poter verificare quali sono le osservazioni che Invimit ha fatto al comune rispetto al nuovo piano regolatore per capire esattamente, quantificare anche, diciamo, cos'è che si intende a realizzare. Certo. Però adesso uso questa metafora qui: andreottianamente, a pensar male si fa peccato, ma ci si prende lì, quello che si lascia presagire è appunto una colata di cemento, tirare su case, alloggi. Fra l'altro, e qui vorrei fare una sottolineatura, a Bologna c'è una questione strategica, quella che noi chiamiamo un'autentica emergenza. Noi pensiamo ci siano due emergenze a Bologna, una ambientale, come denotano gli aumenti delle malattie respiratorie, cardiovascolari, insomma, i tecnici e i sanitari denunciano da tempo questa situazione. Stiamo respirando un'aria schifosa a Bologna, certo, che è fonte di malattie per tante persone, tra l'altro che sta colpendo moltissimo i bambini negli ultimi tempi. E dall'altra c'è un'emergenza abitativa, ma l'emergenza abitativa riguarda il fatto che Bologna fortunatamente ha un mercato del lavoro molto dinamico che sta attirando moltissime persone dall'esterno, di cui il sistema produttivo in senso lato ha disperatamente bisogno, certo, se vuole mantenere quei volumi produttivi, ma si vogliono alloggi in affitto a prezzi accessibili. Calmerato. Perché? Perché questo è già un tema che sussisteva prima per i tanti studenti universitari che vengono a Bologna e che sono oggetto di autentiche rapine per i prezzi a cui sono costretti. I giovani non riescono più a uscire di casa perché non si trova un accidente di casa in affitto, e poi queste persone che arrivano, e che guardate che non sono soltanto i segmenti bassi del mercato del lavoro, come diceva il professor Prodi l'altro giorno all'iniziativa del comune, qui aspettiamo migliaia di ricercatori nel nuovo tecnopolo che sorgerà in via Stalingrado, e queste persone vengono da tutta Europa, e quindi c'è bisogno di case in affitto a prezzi accessibili. Bisogna fare degli studentati che siano accessibili appunto ai ragazzi che vengono a studiare a Bologna. Bisogna sviluppare una politica dell'accoglienza intelligente che, diciamo, dopo aver formato questi cervelli e questi talenti, provi a trattenerli, perché Bologna ha un futuro che è un futuro solo sul piano della qualità, dell'innovazione e della ricerca, però bisogna che si strutturi con delle soluzioni adeguate, altrimenti noi rischiamo grosso, ecco. Quindi bisogna affrontare entrambe queste emergenze. Certo, era il punto poi a cui volevo arrivare, che hai anticipato tu, cioè il legame appunto tra emergenza abitativa e emergenza ambientale. È un legame indissolubile, perché non si può affrontare l'uno senza l'altro, bisogna tenerli strettamente correlati, e quindi si arriva a una conclusione: bisogna riutilizzare, o come usa dire adesso, rigenerare le tante aree dismesse che ci sono, perché ci sono. Quindi non bisogna consumare ulteriore suolo, bisogna utilizzare quello che già c'è e che è inutilizzato e fonte di degrado. Però ci vuole la politica che abbia un orientamento preciso, insomma, le chiacchiere stanno a zero. E guardate che questa non è la solita, diciamo così, petizione genericamente ambientalista. Io insisto su quelle che sono le caratteristiche della composizione sociale della città e del suo mercato del lavoro. Se noi vogliamo guardare avanti, dobbiamo dare risposte a quei due problemi lì.